amiche e amici del Move the Groove. Oggi facciamo gli auguri di compleanno a un grande coso, un po' genio, un po' incompreso. Spegne 73 candeline. George Carl. Buongiorno a tutti. Grazie Paolo per questa palla 2, saluto anche Pietro Rossi che per motivi di impegni personali oggi non sarà nel nostro roster, ma sempre comunque c'è il giovane rookie of the year al quale mando un saluto aspettandolo al più presto nuovamente in studio. Per me George Karl era un grandissimo allenatore, grande allenatore, se vogliamo per certi aspetti, giustamente come hai detto, incompreso, forse sottovalutato, visto che oggi tra i nostri protagonisti ci saranno alcuni sottovalutati, ma anche qualche sopravvalutato, Allora, Andrea lascia il premio al secondo, se qualcuno vuole arrivare in Biblion per avere il custode di Ron Rush, il film è Revolutionary Road, quello ormai l'ho svelato, anche se vogliamo l'autore, però se volete riproporlo io sono ben contento di consegnare al ripescaggio in questo caso il premio di presentazione questa sera in Biblion a Granarolo, ore 21. Beh, della sua diciamo che ha allenato superstar un po' disagiate, faccio un paio di nomi: Camp, Payton, Sam Cassell e compagnia varia. Diamogli credito a questo coach. Ovviamente, poi Sean Kemp, grandissimo giocatore, secondo me sì, ha avuto problemi di mentalità, ma indubbiamente uno dei quattro più forti in epoca di normalizzazione cestistica. Grandissimo giocatore Sean Kemp e non solo fisico, la testa insomma è un pochettino, ma di testa ne ho già parlato, quando tutto il sangue, l'ossigenazione del corpo è nelle gambe. Sembra banale quello che sto dicendo, ma vi posso assicurare che da ex atleta è così, quando tutto il sangue è impegnato nell'ossigenazione degli arti inferiori, della fisico, così molte volte non bene, è per la concentrazione, per la lucidità. Questo è il grande giocatore che io definisco di intelligenza cestistica. Brutta parola l'intelligenza, ma quando viene poi dato una specificità per completare l'aggettivo tutto cambia. I grandi giocatori di intelligenza agonistica e sportiva hanno questa caratteristica. L'impegno fisico, ma nello stesso tempo riuscire a mantenere una lucidità mentale. Ma com'è possibile non riuscire a fare questo? Eh no, quando tutta l'ossigenazione è impegnata, come Dio deve, a gestire lo sforzo fisico, la lucidità di concentrazione è persa. Bene Dino, ti aspetto allora questa sera a Granarolo dell'Emilia. Perfetto, hai scritto tutto perfettamente. Revolutionary Road, il romanzo di Richard Yates, capolavoro assoluto. Ti omaggio io personalmente, anche per tutto il lavoro che stai facendo nella selezione di musica italiana del venerdì. Sarà un grande piacere donarti e farti omaggio di Ron Rush, il custode, la nuova frontiera. Per me ti piace e anche tanto. Portiamo un po' di musica, poi è inevitabile, io sono un detrattore, non dello sport calcio, anzi vi confesso, guarda, arrivo a dire qualcosa che il calcio in sé, sto parlando dell'aspetto sportivo, è anche uno sport, è bello se vogliamo, ha particolarità uniche, è quello che vi è intorno che a me devasta totalmente e me lo fa scadere fino ad arrivare a portare, io vorrei portare a termine un termine, perché non è possibile sospendere i campionati. Ma quando troviamo cori razzisti, quando troviamo violenza gratuita, è inaccettabile, quando troviamo la corruzione, quando troviamo motivo di distrazione di massa legata a uno sport, ma potrei citare mille episodi, mi portano all'esasperazione. In sé, il calcio in sé, non ce l'ho con il calcio. L'aspetto economico, trabordante, qualcosa di incomprensibile, gente che addirittura arriva a fare manifestazioni se per caso la squadra del cuore viene fermata per motivi di truffa, vengono tolti dei punti o annullati dei premi per chiari motivi di truffa, ecco, in quel caso sono disposti a fare delle manifestazioni e non sa neanche leggere la loro busta paga. Ecco, quello mi fa male molto e mi arrabbio, quindi ciò non toglie che ovviamente i miei più sinceri complimenti alla squadra della città di Bologna, della mia città, e quindi ci rappresenta per un importantissimo risultato. Da decenni non arriva a tale titolo, a tale competizione così eccelsa nell'eccellenza dell'Europa, quindi chiaro, complimenti, felicitazioni. E come, poiché io non sia andato in piazza, quello è un altro discorso, non mi sembrava proprio il caso, parlo per me ovviamente, questo non toglie niente ai meriti sportivi. Contento che alcune curiosità mi siano state, per così dire, soddisfatte dai ragazzi di Caffè e Paglia, a cui ieri ho dato una mano nei primi minuti di format per la regia, ne sono stato onoratissimo, e saluto la formazione di Caffè e Paglia del lunedì. Quando si fa sport per decenni a un livello insomma agonistico e quando diventa la tua unica attività, ne hai una, per così dire, competenza, anche parlando di una disciplina, soprattutto se si tratta di sport di squadra, che non è esattamente la tua. Allora, è inevitabile, non ho la televisione, però leggo i giornali, quindi dai quotidiani in cronaca locale i risultati, era inevitabile che io ne avessi la conoscenza. Non è che mi chiudo gli occhi, oh no, è il diavolo, non lo voglio vedere. No, leggo, vedo il risultato, finisce lì. e quindi automaticamente non ho la televisione, come ho ribadito più volte. Ci ho provato anche ultimamente, ma non ce l'ho fatta, ragazzi, è più forte di me, non ce l'ho fatta. Quindi, anzi, se qualcuno vuole una televisione, no, non è mercanteggio, anzi, parliamo di questi aspetti che mi hanno, per così dire, portato a chiedere alcuni aspetti agonistici e, perché no, anche tecnici. Allora, tramite le clip guardavo, per curiosità, visto tutti questi risultati positivi, alcuni momenti terminali, cioè i gol, i momenti salienti, gli highlights, come si suol dire. E nei momenti dei gol io vedevo nella formazione felsinea una casualità, qualcosa che portava tutto al momento giusto, con gli atleti nella posizione più atta per concludere l'azione, tutto al posto giusto nel momento giusto, la casualità, il rimpallo giusto, la freddezza per la realizzazione, e tutto questo capitava esattamente che sembrava. Ma guarda un po', il commento di una persona non così vicina allo sport del calcio, ma guarda come la casualità. È certo che a questa squadra quest'anno va tutto veramente bene, ma veramente, Beh, ho sottovalutato tanti aspetti, e infatti parlando ieri con Mingo, che ringrazio e saluto, mi ha detto: con gli highlights non è che si capisca moltissimo, Sicuramente quest'anno la formazione felsinea ha avuto modo di costruire tutto ciò, ma non lo puoi vedere in un highlight. È per quello che anche su determinati protagonisti nella pallacanestro, quando mandano highlights e fanno vedere solo certi aspetti, è un momento di descrizione molto sottovalutato, molto incompleto, molto immediato, ma fa parte dell'epoca in cui viviamo, no? Il tutto subito, l'immediatezza, l'aspetto primitivo e primario. Quello che tu trovi così immediato, giustamente, hai ragione, non hai fatto un'analisi sbagliata, hai fatto un'analisi incompleta, perché ti mancano dei pezzi che sicuramente avresti capito avendo fatto sport per anni. Mettere assieme tutto ciò, certo, è andata bene, ma non sempre è dettato dal caso. Anzi, il più delle volte quel giocatore è lì in quel rimpallo che è arrivato in quel momento perché si voleva che questo atleta fosse lì nel momento esatto di un ipotetico rimpallo favorevole. Quindi, insomma, diverse sono le cose poi da osservare, da portare, da vedere nell'informazione, questa nella nostra quotidianità. Non è tanto una figura sottovalutare determinati aspetti, ritenerli superficiali, perché sono tanti i momenti che compongono un percorso, in questo caso vincente. Bene. We break it all down in hopes that you might understand how to protect yourself. Don't make no profit for the man. I'm so glad I've got my own. Sì, complimenti a Bologna che dopo 60 anni torna a giocare la coppa più importante d'Europa, ovvero la Champions League, la vecchia Coppa Campioni. Ancora complimenti, BFC. Lavoro l'ha fatta la dirigenza, che ha fatto una squadra all'altezza, e soprattutto questo mister Thiago Motta, che dopo campionati di niente da parte del Bologna ha portato una sola parola: l'ambizione, e l'ha messa in atto, e il Bologna è lì dov'è, terzo, è in Champions League. Qua essere che anche questo coach sia stato, non lo so e non lo conosco, mi hanno detto che era un atleta, era, giocava appunto, può essere che nei suoi percorsi, visto che oggi sono parole molto presenti nel format, sia stato un sottovalutato. Lo chiedo a voi, lo chiedo a Paolo. Se non altissimo, ha vinto un sacco di cose, soprattutto giocando nell'Inter, ma anche in Spagna e altri campionati. È partito in sordina come tanti allenatori, ma la sua idea ci ha sempre creduto ed è riuscita finalmente a metterla in atto. È un mister innovativo, la squadra ha creduto in lui, l'ha seguito, fedelissimi. Secondo me si butterebbero nel fuoco per questo allenatore e i risultati sta vedendo, e che risultati, più che ottimi. Confidence, fiducia, come disse Rolando Blackman prima dell'esecuzione vincente del tiro libero decisivo all'All-Star Game. Interessante anche l'argomentazione che voleva portare Paolo Zanardi, che telefono, adesso non voglio rubare idee, ci mancherebbe, anche se una piccola citazione doverosa farla anche in questo caso, ma questo traguardo importante in ambito calcistico può aver messo, portato in dialogo anche due tifoserie così diverse, anche se a me non piace parlare di tifo, di tifoserie, di questo tifo. Il tifo per me è una malattia infettiva, ecco, la definizione giusta è quella. Del resto è il tifo, il tetano, tante altre, ecco. Definizione azzeccata hanno dato a questa esasperazione di passione sportiva. Tra la F scudata e la V nera, con ci può essere un, non lo so, non so come portare neanche la comparazione, perché sono cose talmente lontane tra di loro. Posso dire che quando ho iniziato da bambino all'età di 7-8 anni ad andare in Piazza Zarita, seguivo l'Alco Bologna, e ricordo che i tifosi del Bologna arrivavano per portare supporto alla Fortitudo, quindi ho sempre abbinato questi due aspetti. Poi saranno sicuramente cambiate un sacco di cose, Intanto andiamo in pubblicità, sono le 8:29 minuti, un minuto giusto con gli Impressions di Sooner or Later, la formazione portata da Curtis Mayfield, prima o poi, Sooner or Later, ma torniamo dopo la pubblicità con il Move to Groove, imprevedibile martedì. Puoi contare su di me, come dice questo brano, Count of Me, dai The Natural Four, un altro gruppo portato da label Carlton Classic di produzione Curtis Mayfield. La colonna sonora di questo soul che, se vogliamo, ha dato una meteora luminosissima nelle playlist musicali per quanto riguarda gli anni 70. Alle 8:36 minuti di questo 14 maggio, imprevedibile martedì, come del resto non ci si aspettavano probabilmente determinati risultati, il martedì di Radio Città Fujiko ne dà un piccolo accenno, se vogliamo, portando sopravvalutati e sottovalutati, argomento di cui abbiamo già parlato con gli underdog, che è un po' una traduzione, adesso vanno molto questi termini, scusate, però a quanto pare ne dà una descrizione attinente, insomma, al filo conduttore del format odierno, al Breakfast Club di Radio Città Fujiko per quest'oggi. Grazie Gianluca, infatti, ma sì, ma esattamente, è un po', è per quello anche che ero molto scettico, sai, sulla proposta del format con tali contenuti, perché la penso come te. Comunque leggo testualmente quello che hai scritto: non ci può essere alcun sentimento di empatia tra noi fortitudini e virtussini a seguito dell'impresa del Bologna Football Club. Sono ambiti totalmente diversi, diametralmente. Anzi, in passato la presenza di tifosi di una o dell'altra squadra allo stadio ha portato tensioni, ci credo. Sottovalutatone, Leroy Hudson. Chiedo a Paolo un altro aspetto a proposito di sottovalutare, sopravvalutare, analizzare, per meglio dire, altro motivo di dialogo che vorrei avere con voi, con Paolo, con la co-conduzione. Cambiategli nome, sì, per me non è, lo ammetto, potrei ammorbarvi per ore, perché non è più pallacanestro, rispetto a quella che è protagonista al Move to Groove. Potrei andare avanti ad oltranza, quindi preferisco portarne qualche piccola precisazione per puntata e poi, insomma, lasciare anche motivo di riflessione. Siccome tante cose, quasi tutte, sono cambiate nel mondo dello sport o degli sport, delle discipline, un cambiamento così radicale, Paolo, ma veramente importante. Guarda che è un altro sport la pallacanestro, è un'altra cosa, è per quello che dicevo cambiate gli nomi, anche per un motivo di correttezza e di rispetto. Anche nel calcio è stato così, anche nel calcio vi sono stati questi percorsi di cambiamento. Questo io non riesco, capisco la mia esperienza agonistica, ma non riesco ad arrivare a tanto così, e so che ci sono appassionate e appassionati che invece hanno la capacità di portare attenzione a questo mio, non dico dilemma, curiosità, dai. So fine, I'm so glad you're mine. You're so rare, so fine, I'm so glad you're mine. You make me glad I'm a woman, 'cause you're a feeling, thinking man. And anytime what I'm feeling, with why and how I want to live. You're so rare, man, you're so fine. You know, I'm so glad you're mine. You're so very rare and so fine. I'm sure I'm glad you're mine. I have to praise you when you hold me. You work your way around. Ain't a part of me left over that your sweet love ain't found. You make my moan turn to whisper. You make my whisper. Sicuramente lo sport mondiale, il basket in primis, è cambiato, soprattutto con le nuove innovazioni, sperimentazioni di allenamenti, di alimentazione. L'uomo nell'ambito fisico atletico ha fatto passi da gigante. Ecco, il problema è che si è andati tutti verso questa direzione, lasciando da parte altri aspetti che per i puristi del gioco erano fondamentali per certi aspetti, secondo me. Ovviamente stiamo parlando del gioco d'insieme, stiamo parlando della costruzione in visione futura, stiamo parlando della continuità. Adesso non vi sono più figure di atleti con continuità, durano tutti pochissimo, appunto per questa concezione di tutto subito. Stiamo parlando di tecnica, stiamo parlando di esecuzione nella raffinatezza e, perché no, anche in una bellezza funzionale, ribadisco funzionale, concretezza. Non confondetela con la leziosità, quella è un'altra cosa. We come a long, long way together, baby. Through the hard times and all the good. Julius Erving, bellissimo, un incanto, questi movimenti, questo tocco sensuale alla palla. Sì, ok, tutto bello, ma se poi non c'era una concretezza, questa bellezza veniva portata in maniera concreta al risultato. Quindi ecco la differenza con la leziosità, che è una bellezza unicamente fine a se stessa. Tecnica, la struttura, la produzione di questo brano con l'introduzione, gli archi, la classicità della formula canzone però riportata con il soul, con il chiaro riferimento a una tradizione afroamericana in ambito di armonia e di soul che si rifà a Sam Cooke, per darne un esempio, con il piacere pop della Motown. Ecco, questa è una bellezza all'ascolto, ma anche una concretezza di esecuzione tecnica. can say. Loving the wrong one won't get you high. Loving the wrong one is just getting by. Love comes so easily if you just let it be. Yes, I'll fill you up. Won't be there, yeah. Fill you up. You left in empty space and how it was when you were searching for a part-time love. Remember, loving the wrong one won't get you high. Loving the wrong one is just getting by. Love comes so easily if you just let it be. From loving you, you know. Easy place to hide, don't turn away. I can say hi. Oh, baby, yeah. I just wanna feel you up. Feel you up. Feel you up, Mystic. 8:47 minuti, uno degli ultimi brani in playlist in questo imprevedibile mood groove. Probabilmente è imprevedibile come determinati risultati, è imprevedibile come vedere da un atleta o da un coach sottovalutato un'impresa importante. Oggi protagonisti in questo format nella rubrica del martedì, per la precisione 14 maggio, ormai giunti nel mid term del quinto mese del 2024. A proposito di quel che sarà, per quanto riguarda il Breakfast Club, il voltiamo pagina di domani con Silvia Albertazzi, avremo sorprese, da quel che ho capito, sorprese, daremo presentazione anche per quanto succederà in libreria Ubic in Via Nerio 27 a Bologna, come ben sapete, in diretta collaborazione con il Breakfast Club. Non perdete dalle 10.30 alle 12.30 il vinile della settimana, curato e condotto da Andrea Gozza, il format del martedì su Radio Città Fusico. A breve, Liberi Dentro, anticipato dall'Edipeo Enciclopedico. Domani voltiamo pagina per la prima colazione in diretta. Con un caloroso abbraccio, ringraziando per la co-conduzione Paolo Onofri, salutando Pietro Rossi, aspettando nuovamente in diretta il Rookie of the Year. Vi lascio con The Work Song di Nat Adderley, qui interpretato dai Pazant Brothers, augurandovi una buona giornata e ringraziandovi per l'attenzione. Con un caloroso abbraccio, un saluto dal vostro William Piana. Ciao a tutte, ciao a tutti.